Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 6 genealogia dei figliuoli di Levi, e quali di essi fossero stabiliti da David cantori, e ministri nella casa del Signore. Generazione dei figliuoli d'Aarone con le loro città in ciascheduna delle tribù di Israele, delle città di rifugio. Figliuoli di Levi, Gerson, Cat, e Merari. Figliuoli di Cat, Amram, Isar, Ebron, e Uziel. Figliuoli di Amram, Aaron, Moises, e Maria. Figliuoli d'Aaron, Nadab, e Abiu, Eleazar, e Itamar. Eleazar generò Finees, e Finees generò Abisue, Abisue generò Bocci, e Bocci generò Ozzi, Ozzi generò Zaraia, e Zaraia generò Meraiot, Meraiot generò Amaria, e Amaria generò Achitob. Achitob generò Sadoc, e Sadoc generò Achimas, Achimas generò Azaria, Azaria generò Ioanan, Ioanan generò Azaria. Egli esercitò le funzioni del sacerdozio nel tempio edificato da Salomone in Gerusalemme. Azaria generò Amaria, e Amaria generò Achitob, Achitob generò Sadoc, e Sadoc generò Sellum, Sellum generò Elcia, Elcia generò Azaria, Azaria generò Saraia, Saraia generò Iosedec. Iosedec cambiò paese, quando il Signore trasportò il popolo di Giuda e di Gerusalemme per le mani di Nabucodonosor. Figliuoli adunque di Levi furono Gerson, Cat, e Merari. E i nomi dei figliuoli di Gerson sono Lobni, e Semei. Figliuoli di Cat, Amram, e Isar, e Debron, e Uziel. Figliuoli di Merari, Moli, e Musi. Ed ecco la discendenza di Levi secondo le sue famiglie. Di Gerson nacque Lobni, di Lobni Yaat, di Yaat Zamma, di Zamma Joa, di Joaddo, di Addo Zara, di Zara Getrai. Figliuoli di Cat, Aminadab fu suo figliuolo, Core figliuolo di Aminadab, Asir di Core, Elcana di Asir, Abiasaf di Edana, Asir di Abiasaf, Taat di Asir, Uriel di Taat, Ozia di Uriel, Sol figliuolo di Ozia. Figliuoli di Elcana, Amasai, e Achimut, ed Elcana. Figliuoli di Elcana, Sofai suo figliuolo, Naat figliuolo di Sofai, Eliab figliuolo di Naat, Geroam figliuolo di Eliab, Elcana figliuolo di Geroam. Figliuoli di Samuel, primogenito Vasseni, e Abia. Figliuoli di Merari sono Moli, Lobni figliuolo di questo, Semei figliuolo di Lobni, Ozza di Semei, Sammaa di Ozza, Aggia di Sammaa, Asaia di Aggia. Questi sono quelli, a quali Davide diede la soprintendenza sopra i cantori della casa del Signore, dopo che fu messa al suo posto l'arca. Ed ei facevano il loro ufficio cantando dinanzi al tabernacolo del testimonio, sino a tanto che Salomone ebbe edificata la casa del Signore in Gerusalemme, ed egli non esercitavano il loro ministero secondo il loro turno. Ed ecco quelli, che servivano insieme coi loro figliuoli, dei figliuoli di Cat, Eman era cantore, egli era figliuolo di Joel, figliuolo di Samuel, figliuolo di Elcana, figliuolo di Geroam, figliuolo di Eliei, figliuolo di Tou, figliuolo di Suf, figliuolo di Elcana, figliuolo di Maat, figliuolo di Amasai, figliuolo di Elcana, figliuolo di Joel, figliuolo di Azaria, figliuolo di Sofonia, figliuolo di Taat, figliuolo di Jeiasir, figliuolo di Abiasaf, figliuolo di Core, figliuolo di Isar, figliuolo di Cat, figliuolo di Levi, figliuolo di Israel. E il suo fratello Asaf stava alla sua destra. Asaf era figliuolo di Barachia, figliuolo di Samaa, figliuolo di Michael, figliuolo di Basaia, figliuolo di Milchia, figliuolo di Atanai, figliuolo di Zara, figliuolo di Adaia, figliuolo di Itan, figliuolo di Zampna, figliuolo di Semei, figliuolo di Jet, figliuolo di Gersom, figliuolo di Levi. I loro fratelli figliuoli di Merari erano alla sinistra, Itan figliuolo di Cusi, figliuolo di Abdi, figliuolo di Maluk, figliuolo di Asabia, figliuolo di Amasia, figliuolo di Elcia, figliuolo di Amasai, figliuolo di Boni, figliuolo di Somer, figliuolo di Moli, figliuolo di Musi, figliuolo di Merari, figliuolo di Levi. E i loro fratelli leviti erano destinati a fare tutto il servizio del tabernacolo della casa del Signore. Maronne e i suoi figliuoli mettevano a bruciare le vittime sopra l'altare degli olocausti e sopra l'altare dei profumi in tutto quello che riguardava il santo dei santi e facevano orazione per Israele secondo tutto quello che aveva ordinato Mosè servo di Dio. Or questi sono i figliuoli d'Aaron, Eleazar suo figliuolo, Finees figliuolo di Eleazaro, Abisai di Finees, Bocci di Abisai, Ozzi di Bocci, Saraia di Ozzi, Meraiot di Saraia, Amaria di Meraiot, Achitob di Amaria, Sadoc di Achitob, Achimas di Sadoc. Ed ecco i luoghi dove questi figliuoli d'Aaron abitavano, viene a dire, i borghi e luoghi all'intorno, che erano toccati ad essi in sorte, principiando dalle famiglie di Cat. Fu dunque ad essi assegnata Hebron nella tribù di Giuda, e i borghi all'intorno. Ma i campi della città e i villaggi furono di Caleb figliuolo di Gefone. Furono ancora date a figliuoli d'Aaron delle città, Hebron città di rifugio, e Lobna cop suoi sobborghi, e Jeter, ed Estemo cop loro sobborghi, e anche Elon, e Dabir cop loro sobborghi. E parimente Asan, e Bet-Semps cop loro sobborghi. E della tribù di Benjamin fu data loro Gabae cop suoi sobborghi, e Almat cop suoi sobborghi, e Anatot cop suoi sobborghi, 13 città divise tra le loro famiglie. E a quei che restavano dei figliuoli di Cat, e alle loro famiglie dettero 10 città della mezza tribù di Manasse. E a figliuoli di Gersom, e alle loro famiglie furono assegnate 13 città della tribù di Sacar, e della tribù di Aser, e della tribù di Neftali, e della mezza tribù di Manasse, che era in Basan. E ai figliuoli di Merari, e alle loro famiglie diedero a sorte 12 città della tribù di Ruben, e della tribù di Gad, e della tribù di Zabulon. Parimente dettero i figliuoli di Israele ai leviti delle città cop loro sobborghi, e le diedero loro a sorte nella tribù dei figliuoli di Giuda, e nella tribù dei figliuoli di Simeon, e nella tribù dei figliuoli di Beniamin, alle quali città dider quelli i propri loro nomi, e parimente quelli della stirpe di Cat ebbero in loro dominio delle città della tribù di Efraim. Diedero adunque ad essi Sichem città del rifugio cop suoi sobborghi sul monte Efraim, e Gazer cop suoi sobborghi, e Jekman cop suoi sobborghi, e parimente Betoron, e anche Elon cop suoi sobborghi, e Getremmon nella stessa maniera. E nella mezza tribù di Manasse fu assegnata Aner cop suoi sobborghi, e Balaam cop suoi sobborghi a quei che restavano della stirpe dei figliuoli di Cat. E i figliuoli della stirpe di Gersom ebbero nella mezza tribù di Manasse Gaulon in Basan cop suoi sobborghi, e Astaroth cop suoi sobborghi. Nella tribù di Sacar, Cedes cop suoi sobborghi, e Daberet cop suoi sobborghi, e anche Ramoth cop suoi sobborghi, e Anecie cop suoi sobborghi. E nella tribù di Aser, Masal cop suoi sobborghi, e parimente Abdon, e anche Ucac cop suoi sobborghi, e Rob cop suoi sobborghi. E nella tribù di Neftali, Cedes nella Galilea cop suoi sobborghi, Amon cop suoi sobborghi, e Canateim cop suoi sobborghi. E a quei che restavano della stirpe dei figliuoli di Merari, diedero Remmono nella tribù di Zabulon cop suoi sobborghi, e Tabor cop suoi sobborghi, e di là dal Giordano di rimpetto a Gerico, all'oriente del Giordano. Ebbero nella tribù di Ruben, Bosor nel deserto cop suoi sobborghi, e Yassa cop suoi sobborghi, e anche Kademot cop suoi sobborghi, e Mepat cop suoi sobborghi, e oltre a ciò nella tribù di Gad, Ramut in Galad cop suoi sobborghi, e Manaim cop suoi sobborghi, e anche Esebonco suoi sobborghi, e Jezer cop suoi sobborghi. Note, 6,3, figliuoli di Aaron, Nadab, e Abiu, Eliezer e Itamar. Nadab e Abiu perirono, come è detto, Levit. X, 2. Rimasero Eleazzaro e Tamr, Simeon, come signore, ebbe il sommo sacerdozio continuato nei suoi posteri sino ad Oli, dopo il quale fu pontefice Eli, det posteri dei Tamar. Dopo Leviti furono quattro pontefici della stessa stirpe, ma dopo di questi tornò il sommo pontificato a discendenti di Eleazzaro, nella persona di Sadoc, i posteri del quale tennero la stessa dignità fino alla trasmigrazione di Babilonia. 6,10. Johanan generò Azaria. Johanan e Ioyoda. 2. Regione undicesimo. 4. Egli esercitò le funzioni e ci. Sembra verisimile che queste parole riguardino Azaria, il quale con petto sacerdotale resiste ad Ozia, il quale pretendeva di offrire l'incenso. Vedi 2. Paral. XXVI, 17. 18, 6,12. Sellum. Detto anche Musollam, capitolo 9. 11, 6,22. Core figliuolo di Aminadab. Ici Core fu ingoiato dalla terra. Numero 16. Ma Dio salvò miracolosamente i suoi figliuoli, dai quali vennero i posteri, che sono qui rammentati. 6,28. Primogenito Vasseni. Il primogenito di Samuele è chiamato Ioel, i, Rec. 8, 2. Onde o egli ebbe due nomi, o il suo nome di Ioel si è qui lasciato indietro per error dei copiati. ILXX tradussero. Il primogenito di lui, di Samuele, Ioel, e il secondo, Abia, però che Vassani significa il secondo. 6,31. Dopo che fa messa al suo posto l'arca. Dopo che l'arca, la quale fino a quel tempo era stata ora in uno, ora in un altro luogo, ebbe sede fissa in Gerusalemme nel tabernacolo fatto da Davide. Allora fu che Davide fece la divisione dei Leviti nelle loro classi. Qui si parla di quelli che furono da lui proposti a cori dei Leviti cantori. 6,33. Eman era cantore. Egli era uomo sapiente. 3. Regione 4, 31. E capo di uno dei cori, cioè di quello di mezzo, come Itan era capo del sinistro. Asaf del destro. Le loro famiglie avevano preminenza sopra le altre dei cantori. Quindi si tesse qui la loro genealogia fino a Levi, come di famiglie distinte e illustri. 6,39. Il suo fratello Asaf. Asaf era della stessa tribù, che Eman è dello stesso sangue, e perciò dicesi suo fratello. 6,44. Itan figliuolo di Cusi. Itan è detto anche Iditan, sì in questo libro, e sì ancora nei titoli dei Salmi. 6,49. Mettevano a bruciare le vittime eci. La voce incensum significa qui, come in qualche altro luogo, le carni delle vittime, che si abbruciavano sull'altare degli olocausti. 6,57. Hebron, città di rifugio, Eci. Ho chiuse in parentesi queste parole, città di rifugio, per dimostrare come el non si applicano alle seguenti città, ma solo a quella di Hebron. Circa le città di rifugio, vedi Ios. 20, 7. 8, 6,60. 13 città. Erano 13, Ios. 21, ma qui ne sono notate 11, essendo state omesse Geta o Gabaon. 6,61. 10 città della mezza tribù di Manasse. Queste 10 città date a quelli di Kat furono parte della mezza tribù di Manasse, parte di Dan e parte di Efraim. 6,68. Jackman. Chiamata Cibsaim, Ios. 15, 22. 6,69. Elon. Ovvero Ayalon, Ios. 21, 24. Oltre a quelle, che son qui notate, Qua i Dicat ebbero anche il Teco e Gabbaton. Ios. 21:23 e 6,70. Aquei, che restavano della stirpe. Dicat. A quei figliuoli di Cat, i quali non essendo della famiglia di Aronne, erano non sacerdoti, ma semplici leviti. 6,77. Nella tribù di Zabulon. Di questa tribù furono date a figliuoli di Merari anche Damna e Salel, Ios. 21:35.